in primo piano. Alle 7:30 minuti, una buona giornata da Laura Bettini. Vedremo insieme le prime pagine dei quotidiani e ovviamente tutti gli approfondimenti possibili nella prossima mezz'ora. Cominciamo dal Sole 24 Ore. L'apertura oggi è dedicata all'intervista condotta dal direttore Fabio Tamburini a Carlo Messina, la D di Intesa. 5 mosse per tagliare il debito, questo è il titolo che è stato scelto. La D di Intesa dice: serve un piano che preveda bond sociali e impieghi agevolati del TFR, poi rientro dei capitali, sblocco degli investimenti e patrimonio pubblico da valorizzare. Questo è il riassunto dell'intervista che poi leggeremo più dettagliatamente. Sempre dalla prima del Sole 24 Ore, ok al DEF. In 12 anni più deficit per 411 miliardi, disoccupazione a 11,6%. Questo appunto altro tema approfondito sulla prima del Sole, ma accanto leggiamo anche allarme debito da Standard & Poor's, la conferma per il rating e l'outlook dell'Italia, ma appunto allarme debito. La crisi tira la volata a 10.000 rider è invece il titolo sulla fotonotizia, dove vediamo appunto un rider che consegna in bicicletta in una Milano deserta. L'emergenza ha fatto aumentare il lavoro dei rider, in maggioranza extracomunitari. Fase 2, mascherine a meno di un metro e orari differenziati, poi questo è l'altro tema appunto che troveremo un po' su tutti i quotidiani della ripresa e delle regole che si stanno mettendo giù per questa seconda fase. Una curiosità dalla prima del Sole su tutt'altro tema: il parmigiano batte le zuppe Campbell's, le etichette saranno da modificare. Perché? Perché il consorzio del formaggio DOP ha vinto il contenzioso legale contro il colosso americano delle zuppe che nelle etichette di alcuni prodotti evocava il formaggio che negli ingredienti però non c'è, o meglio c'è un formaggio similgrana che parmigiano non è. Ora Campbell's deve togliere qualsiasi riferimento dalle etichette, causa analoga è in corso con il gruppo Kraft che vuole registrare il marchio Kraft Parmesan Cheese. E quindi continuano Le battaglie ovviamente per la tutela dei marchi italiani in giro per il mondo, perché comunque le cose appunto nonostante il Covid vanno avanti. La Repubblica oggi ovviamente con l'editoriale del nuovo direttore Maurizio Molinari, sapete che ieri non è andata in edicola per una protesta dei giornalisti per questo avvicendamento al vertice, non tanto contro Molinari quanto per la scelta appunto di compiere questo avvicendamento nel giorno in cui l'ex direttore Verdelli era minacciato appunto di morte. Quindi c'è la sfida di un giornale per il riscatto del paese ferito, l'editoriale di Maurizio Molinari che ovviamente assume la direzione di Repubblica e dice che significa questo raccogliere la sfida di descrivere un'Italia aggredita dalla pandemia, ferita dalle disuguaglianze, segnata dal populismo, ma al tempo stesso con le potenzialità di tornare protagonista in Europa e in Occidente. Una sfida che si fonda sul rispetto per chi mi ha preceduto alla guida di questo giornale, interpretando sin dalla fondazione nel 1976 il bisogno di una informazione di qualità, nel costante richiamo ai valori della Costituzione repubblicana, puntando, come ha affermato Eugenio Scalfari in una conversazione con Ezio Mauro, sulla scommessa di trovare sempre nuovo pubblico e sul rispetto per i lettori che sono più intelligenti di noi e meritano ogni sacrificio al fine di spiegare quanto avviene nelle nostre città e nel mondo grazie a contenuti competitivi su ogni piattaforma, dalla carta al digitale. Questo è solo l'incipit di quanto scrive Molinari, che poi appunto prosegue in un editoriale molto lungo e dettagliato. Dalla prima di Repubblica, al di là di questo editoriale, però ovviamente vediamo i titoli di apertura sulle notizie. Il 25 aprile accanto agli ultimi per quel che ricorda la festa di liberazione della giornata di oggi, liberazione e solidarietà, scrive Michele Serra, sul concetto di resistenza sono state spese molte parole negli ultimi anni e non tutte retoriche, mano a mano che la generazione dei giovani partigiani e dei quasi altrettanto giovani padri costituenti invecchiava e ci lasciava, è sembrato giusto e utile provare a estendere alle sfide presenti quel concetto. Poi ovviamente le regole per ripartire, la rivoluzione dei trasporti, viaggi a numero chiuso, mascherine obbligatorie, limiti alle messe. Il ministro Gualtieri dice 155 miliardi per le imprese. All'interno troviamo poi anche un'intervista al ministro Franceschini per quel che riguarda il turismo e i beni culturali, molto interessante, e tra l'altro boccia Franceschini l'idea del plexiglass che abbiamo visto in molti rendering in questo periodo per così il futuro delle spiagge italiane. Andiamo al Corriere della Sera. Virus, cadono i primi divieti. Il governo approva il DEF, in arrivo una maxi manovra da 150 miliardi per ripartire. Emergenza virus, comincia ad allentarsi gradualmente la morsa dei divieti, si potrà cominciare a spostarsi all'interno delle regioni, si va verso la cancellazione delle autocertificazioni. Il 18 maggio riaprono i musei, il contagio continua a diminuire, in calo il numero delle persone ricoverate. Sul versante economico si pensa a una maxi manovra da 150 miliardi. Commento di Federico Fubini. L'Europa adesso c'è. Uno scambio tra le due donne tedesche nel telesummit dell'altro giorno dice tutto quel che c'è da sapere se non si arrivasse a un vero piano di rilancio in Europa, scrive Fubini. Ha osservato a un certo punto Ursula von der Leyen: da quando abbiamo sospeso le regole che limitano gli aiuti di Stato alle imprese, metà degli interventi autorizzati riguardano un solo paese. L'ha interrotta Angela Merkel, per una volta con un filo di ironia. Stai parlando di noi? Sì, parlava della Germania, la presidente della Commissione. In una Europa dove le regole della partita sono sospese e ciascuno giocasse solo per sé, nessuno per tutti, diventerebbe un sistema piuttosto che meritocratico darwiniano, scrive Fubini. Prevarrebbero solo i forti e le fratture non farebbero che allargarsi fino alla deriva delle economie, del tessuto sociale, dei sistemi politici che alla lunga provocherebbero la sconfitta di tutti. Questo la tesi di partenza. Sempre dalla prima del Corriere della Sera c'è un'intervista a Salvini: il Premier ora ascolti le nostre idee. L'intervista di Marco Cremonesi: il Premier Conte deve ascoltare le nostre idee e il nostro piano, oppure basta con la concordia nazionale. Ragazzi, vi rendete conto che siamo a 45 giorni di chiusura? Così al Corriere il leader della Lega Matteo Salvini. E il MES lo pagheremo con il sangue, sono soldi che all'Italia costerà cari, e sapete che sul MES si consumano numerose battaglie in questo periodo. Vorrei sottolineare anche Conte alla prova di settembre, dossier degli 007, Francesco Verderami: se giugno è il mese in cui si deciderà la sorte del governo è perché la politica deve prepararsi per settembre, quando la crisi impatterà sul sistema economico e sociale, e ci sono appunto diversi allarmi che arrivano anche dagli 007. La stampa, anche lei fa parte di tutti gli avvicendamenti direttori di cui sappiamo, e quindi c'è anche il saluto di Massimo Giannini che arriva alla direzione della stampa, un giornale moderato per bene. Benvenuto in un giornale per bene. Era una fine del gennaio del 1995, l'avvocato, con la A maiuscola, mi accoglieva così nel suo ufficio alla Fiat di Corso Marconi, scrive Giannini. Il Lingotto sarebbe rinato più tardi a rinverdire i fasti di Torino. La stampa, invece, era rimasta la stessa da più di un secolo. Non solo il gioiello di famiglia degli Agnelli, ma un patrimonio prezioso della città e del paese. Un grande quotidiano costruito su un equilibrio magicamente glocal, radicato nella storia, nella cultura, nell'economia del suo territorio, ma sempre proiettato sui fatti, le tendenze e i cambiamenti del mondo. Io ci arrivai chiamato da Ezio Mauro, che allora la dirigeva e che di lì a poco si sarebbe trasferito a Repubblica, dove 2 anni dopo sarei rientrato anch'io per poi passarcene altri 23. Un andare e un tornare che si è ripetuto spesso, da Mario Calabresi a Maurizio Molinari, che ora mi passa il testimone, a conferma di quanto siano intrecciate le vicende di queste due testate, diverse ma unite da una trama identitaria comune fatta di laicità e modernità, di azionismo e di civismo, di senso dello Stato e di fedeltà ai principi delle liberal democrazie dell'Occidente. Sentite il taglio, sicuramente diverso rispetto a quello che abbiamo sentito prima di presentazione di Molinari su Repubblica. Scrive poi Giannini: tra l'altro torno chiamato da John Elkann, che ringrazio per la stima e la fiducia. Andiamo al Messaggero. Permessi e divieti, questo è il titolo di apertura. Domani linee guida, lunedì decreto, governo diviso, mascherine obbligatorie soltanto nei luoghi chiusi. Da metà maggio gli spostamenti tra regioni, si potrà tornare a far visita ad amici e familiari, ovviamente con, se lo aggiungo io, ma insomma con tutte le precauzioni del caso. Roma, prove di metro contingentata, a Roma sperimentazione alla fermata metro di San Giovanni, ci sono diverse fotografie nei quotidiani di questa sperimentazione con dei segni per terra, un po' come siamo adesso abituati a vederli in tutti i supermercati, per esempio, no? Dove si segna la distanza di un metro almeno tra una persona e l'altra, lo stesso nelle metropolitane. Sempre dalla prima del Messaggero, cura da 150 miliardi, Verstager, l'Europa non si limiti ai prestiti, ok al DEF tra bonus e fondi alle imprese. In Lombardia, meno 260 posti, rischio lockdown, le regioni riducono le terapie intensive, l'allarme dell'esecutivo è troppo presto. E vi leggo quello che è in prima di questo articolo scritto da Mauro Evangelisti. Scatta l'allarme nel governo, alcune regioni stanno riducendo le disponibilità di letti di terapia intensiva, ma così si rischierà di compromettere le nuove riaperture previste per il 4 maggio, causando nuovi blocchi. In particolare la Lombardia in 10 giorni ha ridotto di 260 unità i letti per i pazienti più gravi. Così il Messaggero. Andiamo al Fatto Quotidiano, la Lombardia, anche qui nel mirino, la Lombardia manda ancora in RSA i dimessi, le 10 domande a cui Fontana e C non rispondono sui dati dei pazienti Covid ed ex nelle case anziani. Poi punti che mette in evidenza il Fatto Quotidiano, come sempre, al primo punto Milano perché contagi alti, Italia 55% tra le RSA e gli ospedali, secondo punto l'INPS più positivi dove si lavora, Confindustria versus sicurezza, quindi questo è il riassunto. Punto 3, oltre 1 milione di passeggeri in più, trasporti, SOS su metro e bonus. Ci ricorda poi il Fatto Quotidiano, un tema su cui abbiamo sentito poco fa anche Raffaella Calandra nel GR24, Cutolo al telefono, sto male, fuori pure Bin Laden Zagaria, Santa Paola resta dentro, giudici in ordine sparso. Lo storico capo camorrista parla con la moglie per l'istanza di scarcerazione, a Sassari rilasciano il fratello di Don Michele, è malato, rischia il contagio, il DAP non ci ha risposto, il legale di Bagarella, lui non chiede nulla. E appunto così il Fatto Quotidiano, che ospita anche un'intervista a Scalfari sulla Nuova Repubblica. Scalfari furibondo, questo è il titolo, Verdelli liquidato, modi vergognosi. E vedremo se poi riusciremo a riprendere questa intervista, comunque ve l'ho segnalata dal Fatto Quotidiano. La Verità, i grillini calano le braghe, sì al MES. Decreto contagocce, erogati prestiti ad appena 20.000 aziende. Bocciata la mozione che impegnava il Premier a non utilizzare il salvastati, nel Movimento 5 Stelle soltanto in 7 non tradiscono la posizione sempre sbandierata, furbata del PD, viola il patto per non affollare l'aula e impedisce che si mantengano le distanze di sicurezza. Chiosa la Verità, con queste regole siamo condannati, daremo sempre più soldi di quanti ne riceveremo. Dopodiché dalla prima della Verità anche le mascherine di Zynga, inteso Zingaretti, non arrivano più. L'Ecotec fa causa al fornitore indagato per frode fiscale, intanto i milioni della regione sono spariti, i milioni della regione versati per l'acquisto appunto di questi milioni, 7,5 milioni di protezioni, per cui la regione Lazio, leggiamo, ha versato a metà marzo oltre 15 milioni di anticipo. Giacomo Amadori ne scrive. Andiamo ad Avvenire, prima della viabilità, Avvenire 25 aprile, resistere, resistere, resistere, così titola il quotidiano. Oggi la manifestazione su Avvenire e altre piattaforme, raccolti 300.000 euro a favore di Caritas e CRI nell'Italia che fronteggia la pandemia. Si celebra in piazze vuote per l'emergenza coronavirus il 75esimo anniversario della liberazione dal nazifascismo. Cerimonie solo con le autorità, l'evento per tutti sui siti 25aprile2020.it e avvenire.it, ma su molti altri quotidiani e sulla siti internet di molti quotidiani sarà trasmessa questa manifestazione. Tra i promotori Petrini, Carlin Petrini, raccolti 300.000 euro per Caritas e Crio. Sottolineato Carlin Petrini perché sarà ospite di Si può fare proprio oggi. A partire, noi iniziamo la trasmissione dalle 8.30, ma ora c'è la viabilità. Promo 24. IG, broker leader nel trading online, ha il piacere di invitarti all'appuntamento dell'anno in live streaming con uno dei più grandi trader al mondo, Larry Williams. Partecipa online il 9 maggio dalle 10 alle 15. Collegati alla diretta video per scoprire le regole d'oro del trading e come gestire al meglio i rischi e le opportunità sui mercati finanziari. Registrati su IG.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fare trading comporta dei rischi. In primo piano. Ancora una buona giornata da Laura Bettini. Riprendiamo dal giornale, da Il Giornale. Si riapre così, questo è il titolo, passeggiate libere, regole in azienda, visita ai parenti, ecco il piano, Mazzaia corre in Veneto, è già fase 3. I grillini si spaccano sul MES, Conte rischia. Questo appunto titolo e riassunto della giornata di ieri da parte del giornale. Diceva di Zaia, ci sono il Veneto pensa già alla fase 3, apriamo tutto quello che si può. Il governatore Zaia accelera, qui il lockdown non esiste più, ne scrive Ludovica Bulian. Vi leggo giusto qualche passaggio. In Veneto via libera tutto il takeaway, ad esempio la consegna a domicilio era già prevista ma ora si potrà andare a prendere il cibo da asporto. In Lombardia ad esempio sulla consegna a domicilio su almeno alcuni prodotti si è fatto un passo indietro, mentre qui appunto si parla anche di takeaway, clienti ovviamente con guanti e mascherina, così come gli addetti, esclusa la possibilità di consumare sul posto. Le cartolerie, i negozi di abbigliamento per bambini, le librerie potranno rimanere aperte tutti i giorni, non più solo due volte alla settimana, ma questo era già previsto anche dall'ultimo decreto del governo, era il Veneto ad aver introdotto limitazioni. Ripartono invece, a prescindere dai codici Ateco, i cantieri dei lavori pubblici su strade e infrastrutture, aperti fiorai e vivai, e anche le darsene col via libera alla manutenzione di imbarcazioni, perché la nautica è un anello portante nella catena del turismo veneto. Riaprono i cancelli dei cimiteri con accessi regolamentati, si sta studiando anche un piano per far ripartire gli asili nido e le scuole per l'infanzia nell'ambito di nuovi sostegni per le famiglie che nella fase 2 potrebbero ritrovarsi con entrambi i genitori al lavoro e i figli a casa. Restiamo dell'idea che il provvedimento di apertura delle aziende debba avere parimenti anche un sostegno alle famiglie. Stiamo andando avanti su questo fronte con le scuole dell'infanzia, così dice Zaia. Il manifesto fase 25, ovviamente l'allusione è al 25 aprile, nel 75esimo della liberazione dal nazifascismo, per la prima volta niente cortei di piazza, solo manifestazioni online. Dopo le polemiche, l'AMPI, unica presenza fisica alle celebrazioni ufficiali, resistenza virale per un nuovo inizio anche sulla piattaforma del manifesto, come dicevamo prima, 25 aprile 2020.it. Riapertura, un protocollo, mille ipotesi, sempre dalla prima del manifesto, che segnala anche il Vietnam e gli altri, la cintura cinese immune al Covid-19. Grazie a direttive precise e isolamento, il Vietnam è riuscito a quanto pare a bloccare il virus. Neanche una vittima, pochi casi, ma tutti i paesi della cintura cinese hanno affrontato in modo vincente il diffondersi del coronavirus e sono pronti a ripartire. Tutto nel dettaglio, nelle pagine interne, Emanuele Giordana da Yangon scrive appunto di come si sono comportati i paesi vicini alla Cina. Su Libero, ripartenza, caos totale, Zaia fa di testa sua e vince. Manca poco al 4 maggio, il governo senza idee, allora la strategia è ognuno per sé. Il presidente Veneto anticipa tutti, apro più attività che posso, io penso alla fase 2. Centropagina, poi abbiamo da una parte il governatore dell'Emilia-Romagna Bonaccini, la barzelletta del momento, sostiene Libero, Bonaccini ha fermato il Covid, invece denunce di medici, morti record, ospizi pericolosi. Altra fotografia, quella del sindaco di Bergamo Gori. Ormai navighiamo al buio, dice, riporta Libero. Gori dice non si capisce niente, la ripresa è fantascienza. Andiamo al quotidiano nazionale, viaggi, bar e negozi, c'è chi riparte, spallata del Veneto, da oggi basta limitazioni, Milano abbassa i limiti di velocità, più ciclabili e servizi di quartiere, dal 4 maggio autocertificazione solo per andare in altre regioni, economia, le agenzie di rating ci danno fiducia, e questo ne abbiamo parlato in apertura appunto riportando Sole 24 Ore. Sulla questione Milano, Milano poi in realtà vale anche, Milano si è messa diciamo a ragionare su questo, ma la riapertura per le grandi città sarà senz'altro un grosso problema di traffico, visto che i mezzi pubblici saranno poco frequentati, a quanto capiamo i numeri contingentati, quindi sicuramente tanti sceglieranno l'auto privata e quindi c'è sicuramente da pensare alla mobilità urbana. In conclusione andiamo al secolo XIX, che oggi per il 25 aprile ha la testata scritta con tre colori, verde, bianco e rosso, e nello specifico della questione ligure titola Liguria, tornano corse e bici sia all'asporto per i ristoranti, permesse attività di tempo libero dalle 19, parrucchieri al lavoro a domicilio. E anche qui insomma, come vediamo, le iniziative sono diverse. Torniamo a Sole 24 Ore per vedere almeno i 5 punti di cui parlava Carlo Messina nell'intervista realizzata dal direttore Tamburini. Dunque, riprendiamo da... ecco. Allora, la priorità, dice Messina, è mettere in campo tutte le iniziative possibili per riportare il debito pubblico sotto controllo. L'Italia è ricca, molto più dell'Olanda, della stessa Germania. Stiamo parlando di 10 trilioni di euro tra risorse delle imprese e risparmi delle famiglie. Il problema è che soltanto una parte minima risulta investita in titoli del debito pubblico italiano. In totale solo il 4% dei titoli di Stato è nei portafogli delle famiglie italiane. È da qui che occorre cominciare per una svolta. Cosa servirebbe, chiede Tamburini? Va messo a punto un nuovo strumento finanziario che serve al Paese per reggere l'urto dei mercati. Occorre creare le condizioni affinché gli italiani si convincano a spostare parte della loro ricchezza verso l'acquisto di titoli che potremmo chiamare bond sociali. Così ci sarebbe la possibilità concreta di far salire dal 5 al 10-20% la parte del debito pubblico controllata dal risparmio privato italiano. Ma quali potrebbero essere le caratteristiche dei bond sociali? Rendimenti competitivi, sgravi fiscali, scudo penale per chi trasferisce capitali dall'estero, trasformandosi da esportatore di capitali in propulsore della ripresa, dice Messina, e dell'accelerazione della crescita italiana. Ci sono ancora 100-200 miliardi di euro dei risparmiatori italiani fuori dall'Italia. Ora è arrivato il momento di farli rientrare. I possessori potrebbero così dimostrare di credere nel proprio paese. Destinare queste risorse all'acquisto dei bond sociali e al rifinanziamento delle imprese sarebbe un gesto apprezzabile e apprezzato. Nello stesso filone c'è il capitolo delle aziende che hanno trasferito la sede all'estero per ottenere vantaggi fiscali. L'emergenza sociale e l'aumento della disoccupazione rappresentano l'opportunità di voltare pagina riportando queste aziende in Italia e l'occasione per affermare l'orgoglio di essere italiani. Altre iniziative possibili? La terza manovra è semplice. In Italia vengono accantonati ogni anno 26 miliardi di TFR, i trattamenti di fine lavoro. Perché non creare le condizioni affinché una parte venga investita in titoli pubblici esentasse? E ancora, perché non lanciare un piano per la valorizzazione del patrimonio dello Stato e degli enti locali? Il progetto c'è, l'ho suggerito da tempo, senza particolare successo. Eppure la quarta manovra, il lancio di titoli che abbiano come sottoscrittori sia investitori istituzionali, sia famiglie e come sottostante immobili pubblici, quindi scuole, caserme, sedi della pubblica amministrazione, permetterebbe di alleggerire il bilancio dello Stato con un altro effetto importante, avvicinare i cittadini al patrimonio immobiliare locale, che con le risorse raccolte potrebbe essere risanato e migliorato. La quinta manovra da fare è sbloccare gli investimenti su più fronti. L'intervista, due pagine, molto lunga, io vi ho letto solo appunto questo estratto, per passare, se riusciamo, a un passaggio dell'intervista al ministro Di Maio sul MES, sapete appunto, questione molto dibattuta. Questa apertura dei 5 Stelle attraverso le parole di Di Maio è appunto certificata su questa, in questa intervista di Andrea Malaguti sulla Stampa. Allora, la domanda è, il discorso insomma nasce ovviamente perché l'Europa dovrebbe darci soldi a fondo perduto, chiede Malaguti, ma guardi che un finanziamento a fondo perduto non significa soldi regalati, risponde il ministro Di Maio, significa entrare in un circuito in cui le risorse finanziarie della Commissione vanno comunque restituite. Francia, Spagna, Portogallo sono sulla stessa posizione, stiamo solo chiedendo una forma concreta di solidarietà. Regalerebbe soldi a fondo perduto all'Austria o alla Spagna? Ma lei sta usando un verbo inappropriato, risponde Di Maio. Non è un regalo. Qui si tratta di individuare un piano finanziario che permetta di non aumentare i divari tra i paesi e di far ripartire tutti insieme il più rapidamente possibile. Se proprio vuole, è un regalo che l'Europa fa a se stessa. Improvvisamente non siete più contrari al MES. Sul MES faccio una riflessione più ampia. Abbiamo da una parte chi tifa contro l'Italia, e io lo trovo sconcertante, dall'altra abbiamo chi considera il MES la salvezza nazionale. Non è vero neanche questo. Dobbiamo essere pragmatici. Questa è la partita della vita per noi e non è ancora finita, anzi è appena iniziata. Così Di Maio sulla Stampa. Noi ci dobbiamo lasciare, adesso c'è il GR24, ci ritroviamo alle 8.30 con Si può fare.